183. Bombe e pasta siringa. Questa ricetta, che può servire ugualmente bene per le bombe e per la pasta siringa, è un po' faticosa, ma non è di difficile esecuzione. Acqua grammi 150, farina d'Ungheria o finissima grammi 100, burro quanto una noce, sale una presa, odore di scorza di limone, uova numero 2 e un rosso. Mettete al fuoco l'acqua col burro e il sale e quando bolle versate la farina tutta a un tratto e rimestatela forte. Tenete la pasta sul fuoco fino a che la farina sia ben cotta, 10 minuti, rimuovendola sempre. Poi levatela dalla cazzaruola e schiacciatela alla grossezza di un dito perché si ghiacci bene. Cominciate a lavorarla per tempo, dapprima con un rosso d'uovo, e quando l'ha incorporato aggiungete una chiara ben montata, poi un altro rosso e, lavorandola sempre col mestolo, un'altra chiara montata, e così di seguito se la dose fosse doppia o tripla della presente. A forza di lavorarlo il composto deve riuscire in ultimo fine come un unguento. Se si tratta di bombe, gettatelo in padella a cucchiaini, dandogli la forma rotonda. Se desiderate la pasta siringa, fatelo passare per la canna attraverso un disco stellato e tagliatelo via via alla lunghezza di 9 a 10 centimetri. Quando avrà perduto il primo bollore, spolverizzatela di zucchero a velo. Il doppio di questa dose potrà bastare per 8 o 10 persone. Queste bombe possono anche servire come fritto composto, praticandovi una piccola incisione quando sono cotte per introdurne all'interno un poco di battuto delicato di carne, ma allora non vanno spolverizzate di zucchero.